e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, eccoci qua, buongiorno Deborah, buongiorno a voi che ci ascoltate, volenti o nolenti, è arrivato. È già l'indovinello del giorno, lo so. Non sono i geometri. Allora, penso di avere già la soluzione, io ti dico che l'ho già fatto. Io no, il cambio dell'armadio. Io sì, avevo troppo freddo e diciamo urlava vendetta la mia pelle. Io sto iniziando, ti devo dire che nonostante abbia letto, abbiamo dedicato addirittura una puntata al libro di Marie Kondo, Il magico potere del riordino, devo dire che non trovo niente di magico e di divertente a mettere a posto, a spazzolare, mettere a posto le cose. No, poi tra l'altro il passaggio dall'estate all'inverno è particolarmente triste, mentre l'altro è più divertente. E poi devo dire. Influenza. No, non mi dire niente, senti con che gola sto parlando, io sembra che una grattugia sia intervenuta. Vabbè, dai, ti coccolo un po', mi prendo la prima parte della trasmissione. Brava. Ti faccio riposare ancora qualche minuto. Intanto con la rassegna stampa di denari. Esatto. Però possiamo chiedere ai nostri ascoltatori se hanno una tecnica per non farsi sommergere dal disordine del cambio armadio, ce la facciamo raccontare? Dai, volentieri, se volete venire a farlo a casa mia, vi ospito, vi faccio anche la torta di mele. Eccola là, 800 24 0024, se ce la volete raccontare, oppure scriveteci, che facciamo prima, al 349 238 6666. Io intanto vi racconto un po' di notizie economiche. Intanto cominciamo con la borsa, ancora una volta abbiamo questo quadro che ci piace definire contrastato in Europa, perché sono negative Parigi, Francoforte e Londra, perdono fra lo 0,2, lo 0,3 e lo 0,4%, mentre è positiva Milano. Buona notizia, finalmente più 0,16% sul FTSE MIB questa mattina in evidenza. Guarda caso i titoli bancari, UbiBanca più 2,36 Unicredit più 1,81, il Banco Popolare guadagna 1,5% insieme a Monte dei Paschi e Pop Milano più 1,40. Bene anche Saipem più 2%. Peraltro vi anticipo che proprio tra pochi minuti parleremo del petrolio, perché gli aumenti delle quotazioni del greggio a livello internazionale, indovina Nicoletta dove si sono già fatti sentire? Sui prezzi alla pompa. Tu con la macchina guidi poco ma non fai caso, io invece faccio caso e anche il mio portafoglio fa caso a questi aumenti, per cui ne parleremo tra poco proprio con il responsabile della Federazione Italiana dei Gestori dei distributori di carburante. In calo invece abbiamo Mediaset, perde 2 punti, STM meno 2, Prismian, Telecom e Leonardo Finmeccanica in ribasso di circa 1%. C'è un po' di tensione nel mondo della tecnologia, perché oggi a Stoccolma crolla anche il titolo Ericsson dopo l'allarme utili, il profit warning lanciato nelle ultime ore, e già questo fa il paio con l'allarme invece della coreana Samsung per il blocco appunto delle vendite dell'ultimo, come ricorderete, appunto Samsung L'S7, che ha questo problema con la batteria che brucia, che prende fuoco. E un'altra notizia da tenere sotto osservazione questa mattina: il tesoro italiano offre in asta 6 miliardi e mezzo di bot a 12 mesi. Vedremo come andranno le cose, se questa scadenza spunterà ancora un rendimento negativo. Volevo segnalare poi un'iniziativa del Sole 24 Ore. Ci sono tanti casi di cronaca recente che mostrano come in molti casi si viva immersi nella rete, lo sappiamo molto bene, ma non si hanno molto chiari i pericoli insiti nel mondo internet, e la cronaca rende anche evidente come non sempre si conoscono le tutele che possiamo adottare per difenderci da tutte le insidie appunto del web. Ecco perché il Sole 24 Ore oggi pubblica una guida sul tema difendersi dai reati online. Vi hanno collaborato nella stesura i maggiori esperti italiani del settore. Le tematiche prese in esame sono il furto di identità, gli accessi abusivi, praticamente la violazione della password, le truffe possibili sulle piattaforme di vendita online. Allora, siccome io ho tante copie di questa guida, Nicoletta, ho pensato stamattina, chi risponderà bene a questa domanda, di regalarne qualcuna. Mi piace. Faccio bene? Sì. Allora, aiuto! A tradimento. Voglio sapere da voi, scrivetecela, prendiamo anche gli sms questa mattina, se non avete tempo di chiamare prendiamo anche o gli WhatsApp. sms, o su WhatsApp, certo, perché ovviamente è più sono conveniente. La regina di WhatsApp. La parola inglese che indica la truffa informatica che viene effettuata via mail, praticamente è l'equivalente di abboccare, quindi è facile, ne abbiamo parlato tante volte, o 800 24 0024 oppure 349 238 6666 per rispondere. Abbiamo tante guide di questa mattina, le guide del Sole 24 Ore per tutelarsi dai reati commessi sulla rete. Allora, andiamo invece adesso al primo, il piccolo approfondimento che facciamo questa mattina. È un copione già scritto: da qualche settimana i prezzi di benzina e diesel hanno ripreso a salire per effetto dell'accordo raggiunto in seno all'OPEC, ancora informale, da alcuni dei più grandi produttori di petrolio al mondo, che controllano circa il 40% di tutto il mercato. Poi l'intesa formale in realtà sarà siglata a fine novembre a Vienna, ma negli ultimi giorni c'è già stata un'importante apertura da parte della Russia sulla sua disponibilità ad un congelamento della produzione, se non anche ad un taglio. Allora, tutto questo fermento che cosa ha portato? Ha portato di nuovo il petrolio a livello internazionale a quotazioni superiori ai $50. Stamattina siamo a 52,7 sul Brent del Mare del Nord, quindi il greggio di riferimento europeo. Il WTI americano è a $51. Tutto questo si è già fatto sentire sui prezzi alla pompa e se ne stanno già lamentando le associazioni dei consumatori, ma stanno tenendo sotto controllo la situazione anche i gestori degli impianti stradali di carburanti. Per cui questa mattina noi facciamo un piccolo commento su tutto questo con Maurizio Micheli, che è presidente della Federazione dei Gestori della FIGISC. Presidente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e Radio Ascoltatori. Oggi siete riuniti, buongiorno, so che lei va più in televisione che venire in radio, per cui magari si stava confondendo per questo. Senta, Presidente, voi siete riuniti proprio a Roma questa mattina anche per discutere di questo argomento. Lei aveva già dichiarato nei giorni scorsi che ci sono le condizioni tecniche per un aumento dei prezzi nei prossimi giorni a causa di questo riassestamento delle quotazioni a livello internazionale. Che cosa devono aspettarsi i consumatori per le prossime settimane? Certo, noi abbiamo avuto questi aumenti, ci sono stati anche in considerazione di quello che voi in premessa avete detto poc'anzi, quindi per l'accordo che c'è stato e l'accordo che c'è con i paesi dell'OPEC ha consentito questo, diciamo, di ricarmierare quello che è il prezzo e quindi di aumentare, diciamo, i prezzi, perché effettivamente, se noi ricordiamo, 2 anni fa i prezzi erano a 2 euro, a 2 euro alla pompa, certo, al distributore. Quindi sono diminuiti tantissimo. E perché? Perché evidentemente questo è successo in considerazione che c'è stato, diciamo, un disinteresse da parte un po' di tutti, c'è stata una rimissione di prodotto che veniva da diverse parti del mondo e, diciamo, questo ha consentito di poter avere dei prezzi così bassi. È arrivato il petrolio a livello internazionale a $35-36 al barile, per cui inevitabilmente $36 al barile, quindi inevitabilmente il prezzo si è abbassato moltissimo. Certo. Io adesso bisogna considerare che forse questo non è il prezzo giusto, era il prezzo un po' basso. E forse il prezzo giusto è quello magari dei 52-60, dai 50-60 dollari al barile, forse per ripristinare, diciamo, un assetto più equilibrato anche tra i paesi produttori. Certo, ci sono Arabia e Venezuela che hanno pesantissimi problemi di bilancio interno e che quindi cercano di correre ai ripari puntando proprio sul rialzo. Esatto, quindi ecco, quello che dobbiamo fare attenzione noi è che non superi di più di questo diciamo questo prezzo auspicato, sì, 50-60. Certo. Allora, intanto, certo, questa mattina io però ecco, volevo soltanto, non è che voglio prendere difese dell'industria petrolifera, però noi abbiamo un osservatorio prezzi che controlla e verifica quelli che sono gli andamenti del petrolio ogni settimana, quindi dall'osservatorio nostro noi leviamo, diciamo, quello che è il prezzo al consumo, quelle che sono le imposte e quello che è il prezzo industriale. E verifichiamo che rispetto ai 28 paesi dell'Unione Europea, che se dovessimo fare una media aritmetica rispetto a quelli che sono i prezzi in Unione Europea, noi vediamo che il prezzo industriale rimane uguale a quello della media europea. Addirittura il gasolio, invece alla pompa siamo più alti? Addirittura il gasolio è inferiore, mentre alla pompa siamo più alti. Siamo perché più pesano alti le imposte e le accise. Brava, e questo l'abbiamo detto mille volte. Le imposte e le accise. Quindi va fatta una comunicazione diciamo, chiara all'utenza, che deve capire che non è che l'aumento viene fatto perché c'è qualcuno che se ne approfitta o magari c'è l'industria petrolifera che aumenta i prezzi. Ma perché c'è lo zoccolo duro della tassazione che non si può comprimere. Presidente, devo salutarla, purtroppo, magari grazie, intanto ci ha rifatto un quadro della situazione, però attenzione ai consumatori che qualche altro movimento prossimamente lo vedremo, soprattutto perché il range di prezzo a livello internazionale auspicato potrebbe spingersi fino ai $60. Andiamo velocemente al traffico e poi andiamo alla rassegna di cuore con una marea di risposte al nostro quizzettone. Io non so quanti fascicolini hai tu, però dovresti averne. Li regalo tutti, guarda, tutti quelli che ho, li vado a chiedere anche ai piani alti del sole, così. Dai, raccatiamo e spediamo. Tutto. Ma ne sono arrivate risposte, devo dire, tutti preparati, eh? Ottima, tra poco. Cuore e denari. Eccoci qui, allora, primi freddi, primi acciacchi, le temperature si sono abbassate e a peggiorare la situazione ci si mette anche l'umidità che sembra accanirsi con le nostre articolazioni che si lamentano. Ogni inizio, ogni cambio di stagione si ripresenta sempre la stessa situazione. In linea con noi oggi abbiamo il professor Carlo Selmi, responsabile di reumatologia e immunologia clinica di Humanitas e docente dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo di quelli che noi generalmente definiamo reumatismi, perché oggi è la giornata mondiale delle malattie reumatiche. Allora, intanto, quello che noi chiamiamo reumatismi non sempre è il termine corretto e ci riferiamo esattamente a quello che vorremmo dire. Professore. Purtroppo ha ragione, nel senso che spesso si fraintendono i dolori articolari o i dolori muscolari per i cosiddetti reumatismi. E questo crea spesso un grosso ritardo nella corretta diagnosi dei pazienti, per cui molto spesso vengono considerati come normali dei dolori articolari, effettivamente in alcuni pazienti associati anche alle temperature, sebbene queste possono essere molto variabili da persona a persona, ma nella realtà a volte indicativi di qualcosa di più serio e che ha bisogno di trattamenti ben diversi rispetto al cambiamento della temperatura. Quindi non è l'umidità la causa dei reumatismi, professore? Assolutamente no. Parliamo, diciamo che con reumatismi noi possiamo grossolanamente considerare due categorie, cioè il dolore legato ad artrite e il dolore legato ad artrosi. Con artrite intendiamo qualcosa di primariamente infiammatorio, cioè all'interno dell'articolazione si crea, diciamo, un sistema immunitario arrabbiato e quindi un'infiammazione cronica che poi porta anche ad un danno dell'articolazione e ovviamente al dolore. È un fuoco, possiamo dire così, l'artrite è un fuoco. Esattamente. L'artrosi è l'inverso, l'artrosi è prima un consumo dell'articolazione, questa sì associata all'età e all'abuso anche dell'articolazione, soprattutto quelle che portano maggiormente il nostro peso come l'anca o il ginocchio, in cui in un secondo momento può comparire l'infiammazione, ma generalmente prima c'è un danno, proprio soprattutto la cartilagine che va a ricoprire il capo osseo all'interno dell'articolazione. Professore, come facciamo a riconoscere il dolore dell'artrosi e a distinguerlo da quello dell'artrite? Si manifestano e si presentano in modi differenti? Esattamente, generalmente ci sono delle caratteristiche piuttosto facili da riconoscere. La prima è il fatto che il dolore legato all'artrite migliora usando l'articolazione, quindi con il movimento, con, se vogliamo, il riscaldamento dell'articolazione, questo va a migliorare. E questo si riflette anche con un'importante rigidità al mattino. Quando noi ci svegliamo è normale che nei primi secondi, nei primi minuti di veglia, noi si faccia fatica a fare dei movimenti fini, soprattutto con le mani. Questo però di solito dura pochi minuti. Nei pazienti con artrite questo arriva a durare diverse ore, se non l'intera giornata. E questo credo che sia forse l'elemento di maggior facilità per distinguere i due tipi di dolore. Quindi se ci sentiamo arrugginiti al mattino per breve tempo, tutto normale, poi riprendiamo. Se invece questo dolore articolare, questa impossibilità nel compiere anche gesti di precisione, si protrae nel tempo, nel corso della giornata, potrebbe essere invece segnale, campanello di allarme di un problema più serio. Ma professore, quando abbiamo male, caldo o freddo? questo dipende molto da persona a persona. Generalmente le malattie infiammatorie tendono ad andare meglio con le temperature più calde. Questo però, ripeto, è molto variabile. Noi abbiamo persone che applicano ad esempio del ghiaccio sulle articolazioni, questo è qualcosa che generalmente non consigliamo, ma che in alcuni casi può avere un effetto positivo. Attenzione però, nessuno di questi è una terapia per un'artrite o anche per un'artrosi, può lievemente migliorare i sintomi. Uno dei casi sono ad esempio le cure termali, ma il loro effetto dura esattamente per il momento dell'applicazione e poi ovviamente va a cessare. Una domanda che arriva da un ascoltatore al 349-238-6666 che ci permette anche di sottolineare un legame importante. Voleva sapere se la psoriasi può essere collegata all'artrite. Lo chiede per il suo papà. Professore, questa gliela serviamo su un piatto d'argento. Può esserci un legame tra la psoriasi, che è una malattia che lo sappiamo interessa la pelle, che si presenta con queste squamette, e l'artrite, quindi pelle e articolazioni possono essere in qualche modo legate? La risposta breve è assolutamente sì. La risposta più articolata è che se la psoriasi colpisce circa il 3% della popolazione italiana, quindi tanta gente anche per la strada, più o meno un terzo, un quarto di queste persone sviluppano anche una forma di infiammazione articolare che si chiama appunto artrite psoriasica. Oggi questa, abbiamo dei mezzi per riconoscerla, abbiamo soprattutto delle terapie estremamente efficaci che non erano disponibili anche solo uno o due anni fa. E quindi incoraggio chiunque abbia questo sospetto ad una valutazione per cercare una terapia adeguata e per prevenire anche le conseguenze dell'artrite. Professore, abbiamo ricordato che oggi è la giornata mondiale delle malattie reumatiche. L'Associazione Nazionale Malattie Reumatici, ANMAR, ONLUS, ha dedicato a questa giornata la campagna Io ne parlo, quindi anche noi ne abbiamo parlato. Se avete delle domande, dei dubbi, volete scriverci, cuoredenari@radio24.it. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata a tutti. Andiamo ad Antonietta da Salerno? Ah, sì. O andiamo ai nostri? Quanti ne stanno? Vogliamo dare la risposta al nostro domandone? Ma esatto, bravo, ci stavo pensando che abbiamo lanciato il domandone poi senza risposta. Naturalmente state rispondendo tutti bene. È il phishing, il reato online, quindi quello che praticamente si traduce con l'abboccaggio, l'abboccare da, pesce, no? Da pescioloni. E quindi guardate, cercherò di accontentare tutti quanto più possibile, andrò a raccattare tutte le guide che trovo sui tavoli di tutti i colleghi, per cui ne manderemo molte. Invece l'armadio? Antonietta, buongiorno. Per l'armadio, 30 secondi prima del GR. Allora, il mio armadio è ben organizzato, nel senso che non bisogna fare tanti cambiamenti, spostamenti, svuotamenti. L'ho organizzato in questo modo, un lato estivo, un lato invernale, con e voilà. I rispettivi... Come bisogna avere molto spazio, lato estivo, lato invernale, come fa Debora, esatto. E noi andiamo a sentire il GR, un libro anche ad Antonietta per essere intervenuta. Grazie ad Antonietta, GR. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenichi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Eccoci ritrovate. Allora, i contratti, sì, proprio quell'ambito oggetto di studio dei due Nobel per l'economia di qualche giorno fa. Studiano la disciplina della contrattualistica a 360 gradi, studi molto complicati e di altissimo livello. Noi oggi parliamo dei contratti di assicurazione del futuro. Che si auspica dovranno essere più semplici, più chiari. È stato il punto centrale questo di un incontro molto importante che si è svolto un paio di giorni fa a Roma fra i vertici di IVAS, che è l'istituto di vigilanza del settore assicurativo, con i rappresentanti del mercato e dei consumatori. L'IVAS cosa ha fatto? Ha raccolto un bel po' di reclami e di segnalazioni che sono stati presentati dai consumatori e da assicurati presso il loro contact center, che è una sorta di ufficio reclami, chiamiamolo così, e ha individuato una serie di aree fare e su cui intervenire per far rimuovere proprio alle imprese di assicurazione quelle che ha ribattezzato come zone grigie del contratto, che possono fuorviare il consumatore e creare anche motivi di conflittualità in caso di sinistro. Però non solo, Olivas ha fatto anche un'altra cosa. Ha fatto sapere che è ufficialmente partita la caccia al tesoretto delle polizze dormienti per garantire il rimborso a chi ne ha diritto. Allora noi abbiamo pensato di ritornare sul tema, anche se le questioni assicurative le abbiamo affrontate, te lo ricordi? Di recente, giovedì scorso, nella puntata di Investire Informati. Esatto. Vinco qualcosa? Una guida sul phishing contro le truffe online. Ne ho bizzeffe, te ne regalo una anche a te. Sì, ne abbiamo parlato proprio giovedì scorso in occasione di Investire Informati con Global Thinking Foundation, perché abbiamo capito che anche lì, sì, gli italiani ci lamentiamo sempre che sono largamente sottoassicurati, non hanno un'adeguata protezione su tutte le possibili problematiche con cui si possono imbattere nella loro vita, e però abbiamo capito anche le motivazioni, la sfiducia, costano un po' troppo rispetto magari alle coperture che offrono, ci sono tante problematiche aperte. Problematiche aperte che conoscono molto bene le associazioni dei consumatori. Allora noi stamattina abbiamo voluto fare un punto della situazione anche a seguito di tutte queste indicazioni uscite da questo incontro con un'associazione dei consumatori che è particolarmente ferrata sui temi delle assicurazioni. Paolo Petri, responsabile settore assicurativo di Consumer con la K, così almeno gli ascoltatori curiosi vanno a cercare bene su internet. Petri, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno. E grazie per essere con noi. Allora, torniamo a coinvolgere, se volete, i nostri ascoltatori sulle assicurazioni. Qual è la vostra zona grigia del contratto che magari proprio di recente avete sottoscritto? Vi riproponiamo un po' la domanda che abbiamo fatto anche giovedì scorso. Aprite un cassetto. Se c'è depositata, ricustodita una polizza stipulata in tempi più o meno recenti, siete consci delle coperture che avete chiesto al vostro assicuratore, oppure in realtà avete firmato, immaginando appunto di proteggervi da una determinata condizione possibile, e in realtà poi andate a vedere nelle clausole non è esattamente quel contratto che vi aspettavate. Insomma, i temi da affrontare sono molti. Se volete condividere con noi questi argomenti, appunto, lo sapete, potete farlo all'800 24 00 24. Petri, allora, l'IVAS ha detto: ci confrontiamo con le associazioni dei consumatori raccontando loro tutte le lamentele che ci arrivano e le denunce al nostro contact center. Altrettante ne arrivano agli sportelli delle associazioni dei consumatori. Allora, a Consumer cosa segnalano i consumatori? Che dimensione ha il fenomeno del reclamo nei settori delle polizze assicurative, appunto, almeno per quello che riguarda il vostro osservatorio specifico? Ma diciamo che le segnalazioni che arrivano a noi come associazione dei consumatori sono simili a quelle che arrivano anche al servizio di tutela del consumatore dell'IVAS. Diciamo che loro ne ricevono di più perché ovviamente hanno un contact center e ricevono anche esposti scritti, certo, che sono circa 35.000 sulla base del loro rapporto annuale. È lo sportello quindi, reclami, diciamo, per eccellenza, quello istituzionale, diciamo, del settore, per cui per prima cosa vanno tutti lì. Che poi sembrerebbe, se noi pensiamo ai milioni di contratti che circolano nel nostro paese, se pensiamo che l'IVAS riceve 35.000 esposti, sembrerebbe un mondo perfetto, e così non lo è, insomma, no? Anche perché scrivere è sempre molto difficile, presentare un reclamo è sempre molto difficile, e quindi dobbiamo tenere conto anche di questo. Diciamo che noi riceviamo le stesse segnalazioni, le stesse problematiche, le stesse zone grigie. Noi ne abbiamo aggiunta una in più rispetto a quelle segnalate dall'IVAS, che riguarda la mancanza nelle condizioni generali dei contratti assicurativi dei termini entro i quali le compagnie devono liquidare il danno. Ah. Ovviamente nella nostra normativa esiste come dire, l'obbligo del consumatore a pagare il premio, e se questo obbligo non viene rispettato, alla mezzanotte del quindicesimo giorno le coperture assicurative non ci sono più, si sospendono. Beh, noi vorremmo che ci fosse anche l'obbligo a carico una della reciprocità, compagnia. Ecco. Una reciprocità, perché in questa maniera entrambi i contraenti di questo contratto sanno quali sono le loro obbligazioni. Ma peraltro noi immaginiamo una persona che ha comprato una vettura a rate, questa vettura gli viene rubata, le rate vanno comunque avanti e lui non sa quando verrà liquidato il danno da parte della compagnia, e quindi tutta la famiglia entra in crisi, non solo perché non ha più la vettura, ma entra in crisi anche la finanza di quella famiglia. Quindi dobbiamo essere consapevoli che un'attività commerciale che prende fuoco interrompe la possibilità di quella famiglia o di quell'impresa di andare avanti con il proprio lavoro. Quindi non è un fatto irrilevante che i contratti di assicurazione possano prevedere, per una questione di civiltà e di giustizia, certo, anche i tempi entro i quali la compagnia deve liquidare. E certo, quindi perché poi non ci dobbiamo lamentare del fatto che le famiglie appunto non si assicurano, a prescindere poi dai, come dire, dai bilanci familiari che oggi sono piuttosto stretti e non consentono anche di dirottare delle risorse su coperture a 360 gradi che qualche volta non hanno neanche senso, perché se si sottoscrive una polizza magari che si faccia anche quella di cui la famiglia ha bisogno. Detto questo, poi se non si ha neanche così la sensazione di avere una relazione con una compagnia corretta nel comportamento, è chiaro che questo ti disincentiva ulteriormente, no, dalla volontà di coprirti. Ma poi, se mi consente, negli anni anche la conflittualità che deriva dalla complessità della polizza che emerge poi nel momento del sinistro, perché poi la complessità della polizza crea ovviamente nel momento del sinistro conflittualità. Questa conflittualità non ha consentito alle assicurazioni nel nostro paese, e special modo quelle del ramo danni, di sviluppare come in altri paesi, mentre per esempio ce ne sono alcune che dovrebbero garantire, non so, se io ho un appartamento, assicurarmi per la responsabilità civile dei danni che io posso causare o sul fatto che l'appartamento può subire dei danni. È una questione importantissima. Se io ho un mutuo, ho dei figli piccoli per esempio, no? È evidente che è anche interesse della famiglia avere una copertura assicurativa nel caso di una tremolienza, nel caso morte. Però voglio dire, questa conflittualità, come giustamente lei sottolineava nella sua introduzione, ha limitato lo sviluppo del settore assicurativo nel nostro paese. E quindi c'è da riportare un contratto che sia molto più semplice e che il contratto venga fatto non con la tecnica della seppia per non farci capire nulla a nessuno, ma che sia fatto in termini chiari. Certo. Quali sono le informazioni più importanti che questo documento, a vostro avviso, Petri, appunto, dovrebbero contenere? Un documento snello nel quale poi magari c'è tutto... esatto. Adesso ci dobbiamo esercitare perché, voglio dire, forse in maniera originale l'IVAS ci ha chiesto di cominciare dalla nota informativa, no? Che dovrebbe essere il riassunto delle condizioni generali. Quindi abbiamo cercato di semplificare la nota informativa, ma voglio dire, è molto meglio adesso che affrontiamo il problema delle condizioni generali. Comunque, nell'esercizio che abbiamo fatto e che adesso entrerà in vigore una nota informativa riassuntiva delle condizioni generali semplificata, ci siamo esercitati su alcune polizze. Ci siamo perché c'era l'ANIA, c'eravamo noi consumatori, l'ANIA, l'associazione delle imprese, sì, c'erano alcune imprese, c'erano gli intermediari. Abbiamo preso una polizza che, come tante, insomma, non è che è molto diversa dalle altre che erano sul mercato, non l'abbiamo scelta perché era la più complessa, era nella media. Beh, questa polizza... A copertura di che cosa, tanto per farci un esempio? Una polizza globale fabbricati, quindi con tutta una serie di coperture assicurative, no? Dove c'era anche la responsabilità del capofamiglia, dove c'erano diverse cose. Questa polizza è di 100 pagine. Allora, voglio dire, è un libro, 100 pagine, sono un libro. Di queste 100 pagine abbiamo contato 92 esclusioni. Ecco, cioè, bravo. Perché io volevo arrivare lì? Tra l'altro, ecco. No, ma adesso glielo dico perché settimana scorsa, quando il nostro ospite ci ha detto aprite i cassetti e andate a vedere le vostre polizze, io mi sono tirata fuori la mia contro lo scoppio incendio, appunto obbligatoria per la casa. Ecco. Non le dico quante pagine di esclusione ci sono in quella polizza, io mi chiedo, qualunque cosa capiti non mi copriranno mai su niente. Sì. Io per sintetizzare affermo che il consumatore, l'assicurato, è convinto di aver comprato un ombrello, ma con le esclusioni ha comprato solo il manico e quindi se piove si bagna. E questo è il punto. È troppo simpatico. Esatto. E quindi, insomma, perché... cominciamo intanto a togliere qualche clausola di esclusione dai contratti, sì, che si alleggerisce di un sacco di pagine il documento. Sì, ma poi è una sorta di caccia al tesoro. In questa polizza, per esempio, nella la parte che era la responsabilità del proprietario, del capofamiglia, venivano ricompresi anche gli animali domestici. Però poi nelle esclusioni... Cane, gatto e canarino. Sono esclusi i cani. Allora, la prima domanda... Gatti sì e canino. Esatto, quindi allora vi copriamo solo se avete una tigre in casa o un boa. Ecco. Ma io mi domando, no? E domandavo agli altri, ma insomma, io mi assicuro perché ho dei pesci rossi in casa, certo, oppure perché appunto ho magari un esterino come un cane che magari può causare, certo, dei danni. Comunque, pagando un sovrappremio, da un'altra parte della polizza c'è scritto che pagando un sovrappremio era possibile assicurare anche i cani. Però da un'altra parte della polizza c'era scritto che alcune particolari razze dei cani venivano comunque escluse. Quindi è una sorta di caccia al tesoro. E quindi quale tipo? Il chihuahua e... non lo so. Capisci? Però vabbè, magari quello più... Chiaro. E poi si fa riferimento molto spesso in queste clausole, si fa riferimento a decreti ministeriali, a quello o quell'altro, per cui poi per comprendere complessivamente quello che c'è scritto bisogna fare anche una ricerca sulle leggi che vengono menzionate nel contratto. Non è possibile andare avanti così. Chiarissimo. Noi la definiamo la tattica della seppia, che appunto voglio dire... No, la tattica della seppia me la deve spiegare. Già che abbiamo parlato di pesci che abboccano stamattina e di phishing. Ecco, qual è la tattica della seppia applicata al mondo assicurativo? Sì, per non farsi prendere dai predatori, tira fuori l'inchiostro, insomma, no? Per cui rende tutto opaco e quindi intorno crea quell'opacità che non consente di capire dove sta la seppia. E così sono questi tipi di contratti. Benissimo. Ma poi voglio dire che molto spesso, non sempre, o perlomeno non sempre, c'è un progetto per fare, come dire, consapevolmente la tattica della seppia. Le faccio un esempio. Nella polizza di responsabilità civile dei veterinari, la prima riga dice che le compagnie solitamente, poi magari ci può essere eccezione, le compagnie rimborseranno i danni causati dal professionista causati a persone e cose. Allora uno dice, ma come? Gli animali no? Ecco, nel linguaggio assicurativo, nelle cose sono comprese anche gli animali. Le sembra possibile una cosa del genere? Cioè, io ritengo che sia offensivo nei confronti di questi esserini meravigliosi che noi chiamiamo animali. Sento che l'animale è proprio stato il cavallo di battaglia di questa vostra riunione, Petri. Senta, io mi devo fermare con lei perché andremo avanti a lungo. Ho già deciso che lei sarà uno dei nostri ospiti di riferimento da qui al futuro per tutte le rogne assicurative. Per gli ascoltatori che chiedono perché non avete chiamato il contraltare Ania, li abbiamo chiamati tante volte, c'è un forum Ania Consumatori che viene interpellato spesso da noi, per cui assolutamente verranno, perché adesso mi suggeriscono anche l'IVAS, lo so Carmelo, adesso ci arrivo, l'IVAS è stata interpellata ieri per intervenire in trasmissione, non sono riusciti a darci nessun interlocutore, ma come avete sentito Petri ci ha fatto un quadro molto esaustivo di questo famoso incontro di Roma e dei temi dei quali si è parlato. Non riesco probabilmente ad affrontare la questione, adesso vediamo, se in un minutino, delle polizze dormienti. Dedicheremo un'altra puntata apposita a questo tema, cosa c'è nel cassetto dei nostri nonni che hanno sottoscritto magari qualche anno fa polizze lì che dormono e che magari sono cadute in prescrizione e che quindi non danno diritto a nessun indennizzo. C'è stata tutta una procedura in questi anni di risveglio di questi documenti, ma in realtà se ne riaddormentano altrettante ogni anno, per cui l'IVAS ha detto facciamo un'indagine conoscitiva e soprattutto diamo gli strumenti alle persone intanto per andare a verificare se questi documenti ci sono, e soprattutto l'industria assicurativa che si sensibilizzi nei confronti dei suoi sottoscrittori indicando loro per tempo che queste polizze stanno terminando la loro vita naturale. Voglio però commentare con un altro ospite velocemente un'altra notizia che è a metà fra il settore assicurativo e giudiziario, perché ieri il Tribunale di Torino ha condannato Salvatore Ligresti, Ionella Ligresti, Fausto Marchionni, Riccardo Ottaviani, quindi i manager e i proprietari, diciamo, della compagnia fondiaria SAI, per i reati di falso in bilancio e manipolazioni di mercato che negli anni passati, lo ricorderete, avevano portato alla crisi dirompente durissima della compagnia, appunto, che è stata poi incorporata in Unipol. Il tribunale ha condannato gli imputati e responsabili civili al risarcimento dei danni causati agli azionisti che nel frattempo si sono costituiti parte civile del processo. Questa è una storia seguita molto attentamente, molto da vicino, dal movimento consumatori. Noi abbiamo un legale questa mattina, un altro amico di Cuore e Denari, l'avvocato Paolo Fiorio, che salutiamo. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a lei e tutti gli ascoltatori. Allora, che cosa c'è da dire su questa notizia rispetto a tutte le persone che voi in questi anni avete seguito? Voi avete rappresentato oltre 1000 azionisti che a questo punto dovranno essere risarciti, in base a quale criterio, Fiorio? Insomma, che novità ci sono da questo punto di vista consumeristico, diciamo così? Allora, la sentenza ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito da parte di tutti gli azionisti, che poi dovrà essere quantificato in sede civile. Che cos'è il danno che hanno subito gli azionisti? Ma è abbastanza semplice. Sono state acquistate delle azioni sulla base di informazioni diffuse al mercato non veritiere, e i falsi che sono stati celati erano talmente gravi che è presumibile che qualsiasi azionista in presenza di quelle informazioni non avrebbe acquistato le azioni. Considerato che le azioni, a seguito poi dell'operazione di salvataggio e dell'aumento di capitale, hanno perso sostanzialmente quasi qualunque valore, le azioni originarie, gli azionisti avranno il nostro avviso, e noi combatteremo fino alla fine perché siano risarciti di tutti i danni subiti, cioè ovvero della perdita che hanno subito sottoscrivendo, acquistando delle azioni che sono state vendute al pubblico tacendo quella che era l'effettiva situazione, certo, patrimoniale della compagnia, che era molto grave. Peraltro il segretario generale della vostra associazione, avvocato Fiorio, ha detto: noi non vorremmo neanche aspettare tutti i prossimi gradi di giudizio, ma vorremmo che si consentisse una liquidazione immediata dei danni subiti dagli azionisti. Ci sono i presupposti, sì, perché questo avvenga? Sì, lo confermo, noi lo chiederemo, l'abbiamo, come dire, comunicato ieri nelle nostre notizie di stampa, lo chiederemo ufficialmente con una richiesta a nome di tutti gli oltre 1000 azionisti che noi rappresentiamo ad Unipolsai. Questa sentenza è una sentenza molto importante, noi confidiamo che anche la Corte d'Appello di Milano possa accogliere il ricorso della Procura Generale e quindi riteniamo che la compagnia, l'Unipolsai, come responsabile civile di tutti i reati, debba ora farsi carico dei danni che sono stati recati agli azionisti e debba, come dire, affrontare questo problema in termini rapidi, veloci, certo, con delle procedure di indennizzo, di liquidazione che potranno essere valutate concordemente con le molte associazioni che collaborano su questa vicenda. Avvocato Fiorio, 1000 azionisti, dicevo prima, che voi seguite, ma c'è qualcuno che può raggiungervi ancora se fosse rimasto indietro appunto in questa vicenda, che può contattarvi per essere aiutato e seguito, oppure sono solo i 1000 azionisti che avete seguito fino a questo momento, che sono già stati, si sono già costituiti appunto parte civile nel processo, per gli altri non c'è più tempo per far nulla, oppure queste nuove sentenze, queste condanne di ieri aprono ulteriori opportunità anche per chi non avesse fatto nulla in questi anni? Diciamo così, le porte del processo penale ormai sono chiuse, cioè nel senso che non è più possibile inserirsi in queste vicende, perché tutti i processi ormai sono andati a dibattimento e non è più possibile la questione di parte civile. Però tutti gli azionisti che hanno subito un danno, che non si fossero costituiti parte civile nei processi, possono contattare la nostra associazione, il Movimento Consumatori, perché non sono ancora prescritte le azioni civili risarcitorie. Certo. Sulla base delle sentenze penali che accerta i falsi in bilancio, la strada del risarcimento civile è sicuramente aperta e possibile, e noi invitiamo tutti a non lasciar perdere i loro diritti risarcitori in questa vicenda. Grazie avvocato Fiorio, buon lavoro, a presto. Grazie a lei e a tutti. Io ringrazio anche per essere stato con noi Paolo Petri, responsabile del settore assicurativo di Consumer. C'era un ascoltatore, Michele Di Bari, che voleva raccontarci che perché, se l'assicuratore gli ha detto che la casa era protetta da danni atmosferici sul contratto, poi l'assicurazione gli ha detto che non pagavano eventuali danni. Michele, ci mandi un po' il documento, saranno 5.000 pagine di esclusioni. Nicoletta? Su WhatsApp arrivano tantissimi messaggi, uno molto carino. Assicurazione auto fatta ieri, 16 firme, non ho idea di che cosa ho firmato. No, vabbè, vado a leggere perché è importante. Insomma, vabbè, sull'auto siamo più o meno un po' più tranquilli. Petri, facciamo una cosa, la rinvio ai prossimi giorni per una puntata solo sulle polizze dormienti, va bene, che non siamo riusciti a trattare stamattina. Quindi dorma preoccupato. Dorma un po' preoccupato, naturalmente, e sulla tattica della seppia adesso andiamo a studiare. Ci ritorneremo. Grazie Petri, buon lavoro, a presto. Buon lavoro anche a voi, buona giornata. Adesso velocemente la borsa, poi andremo alle tematiche di cuore, alle quali teniamo molto. Parleremo di chat, i genitori in chat. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Ci dicevano, insistevano di studiare, che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto. Allora, ultima parte di Cuore e denari. Adesso noi in quest'ultima parte non vorremmo limitarci a entrare nelle vostre case, vogliamo entrare nella vostra chat, in una in particolare, in quella che condividete con i genitori dei compagni di classe di vostro figlio. Come si chiama la vostra? Siete soddisfatti di parteciparvi? Vi è utile? Oppure vi pentite un po' di esservi lasciati tirare dentro? 800 24 00 24. Tu te la ridi? Rido perché non c'è la chat delle zie. No, però io ne ho una con dei miei amici. Dopo ti dico come la chiamiamo. No, diteci i nomi, esatto. Ma soprattutto raccontateci che cosa pensate delle chat dei genitori. Carmelo ha già espresso il suo parere, un incubo. La faccia dice tutto. Ecco, articolate il vostro pensiero e noi faremo una pagina. Facciamo una sorta di sondaggione. Abbiamo lanciato anche un sondaggio via Twitter. Siete favorevoli o contrari alle chat? Noi naturalmente abbiamo invitato un po' i protagonisti. I ragazzi non abbiamo potuto invitarli, perché sono a scuola. Ma abbiamo in linea con noi Alberto Pellai, che ci darà un po' una lettura con un altro paio di occhiali, come si dice. Alberto, ciao, medico, psicoterapeuta, scrittore, padre. E soprattutto vostro amico, buongiorno. Bravo, a tutti. Bravo, così ci piace. Abbiamo una mamma, Yolanda Restano, di fattoremamma.com. Ciao Yolanda. Ciao a tutti. Una mamma, anche tu chatti, vero? Sì. Assolutamente sì. E sentiremo anche il parere quindi di mamma e ci piacerebbe anche sentire il parere di papà che chattano, perché sono sempre più numerose le mamme. E naturalmente abbiamo voluto anche coinvolgere un preside, abbiamo in linea con noi Salvatore Giuliano, preside dell'Istituto Majorana di Brindisi. Buongiorno. Tutti voi, grazie per aver chiamato. Buongiorno professore. E quindi abbiamo genitori. Abbiamo il preside, abbiamo Alberto Pellai che ci aiuta a capire che cosa ci muove, che cosa succede nelle chat, in cui poi ci trasformiamo, perché nascono con le migliori intenzioni per ricordare appuntamenti, riunioni di classe, per far circolare avvisi o fare collette. Infatti c'è chi scrive per avere i compiti per il figlio rimasto assente dalla lezione o per essere informato sull'orario della riunione di classe, ma a volte degenerano e c'è chi si lascia andare a commenti su professori, sul metodo di insegnamento o ancora chi, come si legge ieri su Repubblica, lancia via chat, pensate, una caccia all'untore dell'epidemia di Pidocchi o allestisce un processo all'insegnante che manda sms durante le lezioni. Naturalmente sono situazioni che creano un po' di imbarazzo anche tra i presidi, tra gli insegnanti. Professor Giuliano, partiamo da lei. Cosa succede nel vostro istituto? Queste chat dei genitori? Come... Le chat dei genitori, una delle diverse chat, sono anch'io genitore, perché poi ho anche mia figlia che frequenta presso l'istituto, e per la verità vengono gestite in maniera molto intelligente, cioè non ci sono state situazioni degne di nota, si è solo utilizzato in maniera molto corretta la chat come strumento di comunicazione molto veloce e rapido. Mi risulta però che ci sono altre situazioni. Situazioni che poi magari se non ben amministrate, perché poi in ogni chat c'è sempre un amministratore della chat, forse l'amministratore quando crea una chat dovrebbe anche informare e dare certo. informazioni sulle regole, sulla netiquette, comunque sulle regole di conduzione, di messaggistica all'interno della chat. Alcune volte possono essere utili non per la delazione o per il pettegolezzo, ma molte volte questo accade soprattutto magari in chat dove hanno accesso solo ed esclusivamente gli alunni, per segnalare episodi che è bene che vengano resi noti al preside o comunque ai docenti o allo staff di presidenza. Mi riferisco per esempio a offese, a linguaggi sicuramente non ortodossi e magari fino ad arrivare ad episodi di cyberbullismo. Allora, in questi casi? In questi casi è bene che la scuola intervenga, quindi lo strumento, la chat, viene, può segnalare episodi che magari poi non sono di competenza del professionale del preside, cioè quantomeno il preside ne viene a conoscenza e poi magari attiva i professionisti di questo, quindi come il nostro amico che abbiamo in linea con noi, affinché si possa dare una spiegazione anche sul fenomeno. Quindi le chat ci sono, bisogna saperle usare bene, un po' come la bicicletta, serve, funziona, ma se uno si bende, va giù senza freni da una discesa, si fa male. Allora, Roberto da Pistoia. Alberto, sei pronto? Ti leggo. Sì. Come padre ho evitato come la peste i gruppi su WhatsApp dei genitori, perché spesso sono un ricettario di bufale, ricettacolo di bufale al netto dell'utilità. La usa mia moglie, che è più diplomatica. Ecco qua una sottile differenza di genere, Alberto. Ma in realtà effettivamente è molto utilizzata dalle mamme più che dai papà, perché poi sono quelle che stanno più in contatto con la vita scolastica dei figli e spesso anche tutta la parte degli impegni dei figli sono più presenti nelle agende delle mamme rispetto a quelle dei papà. Io vorrei però sottolineare il fatto che nel momento in cui una chat si sposta da luogo dove vengono condivise informazioni di servizio, i compiti per mio figlio che è stato assente, l'ora di partenza della gita scolastica, a luogo in cui invece vengono condivise situazioni che sono successe a un bambino in classe, oppure dialoghi tra la maestra e un bambino, oppure una situazione di bullismo, ecco, si trasforma in pubblico qualcosa che invece andrebbe analizzato faccia a faccia con i referenti di quella situazione specifica, cioè parlare di un bambino bullo dentro a una chat significa amplificare all'infinito la percezione di un gruppo di adulti che magari diventano ansiosi, magari diventano a loro volta indaganti con una serie di domande poi fatte ai figli quando arrivano a casa, e spostare proprio il livello della conversazione da un piano alto dove gli adulti possono collaborare a un piano basso dove tutti possono dire tutto e la situazione a quel punto sfugge di mano, perché ci vogliono proprio cornici e significati dove le cose vengono connotate non con la pulsione emozionale del momento, scrivere in chat è una roba di un secondo, ma dove invece occorre riflettere e farsi tante domande prima di dare delle risposte. Allora, rinnoviamo l'invito, siete favorevoli o contrari alle chat, partecipate al nostro sondaggio via Twitter, ma soprattutto lasciateci i vostri messaggi, faremo una pagina. I genitori di Cuore Denari pensano che... Allora, Davide da Bassano del Grappa ci scrive che loro hanno fatto due categorie separate. Sì. Una è per le comunicazioni, diciamo, ufficiali, e una chiamata Quattro Ciacoe. Infatti vi invitiamo a dirci anche il nome della vostra chat per il cazzeggio tra noi genitori, per chi vuole naturalmente. E Davide dice, trovo siano utili. Yolanda, di figli tu ne hai tre e tu frequenti due chat. Segno che il terzo figlio l'hai graziato? Non è che il terzo figlio l'ho graziato. Ma siccome sono io la rappresentante di classe della classe del terzo figlio, mi sono semplicemente rifiutata di aprire la chat di classe. Questo è successo. No, comunque, se posso dare il mio parere, certo. Mia mamma, ovvio, la WhatsApp lo trovo uno strumento molto molto utile, come sempre accade con le nuove tecnologie, che a me piacciono, mi appassionano e le trovo veramente utili. Certo, ogni tanto sono utilizzate con un po' di così a mano libera dalle mamme. E delle volte le chat di classe diventano davvero un po' pesanti, proprio come diceva Alberto, cioè perché si trattano argomenti che invece sarebbe meglio trattare vis-à-vis o comunque solo con le persone interessate e non aprire a tutta la classe. Perché abbiamo bisogno di guardarci anche negli occhi, Alberto. Sì, sì, sì. Alberto. Sì, io credo che ci sono delle parole che scritte dentro un messaggio di WhatsApp e private invece del come stiamo dicendo quella parola possono assumere dei significati o delle implicazioni emotive in chi le legge che travisano completamente l'intenzione con cui una persona le ha scritte. E devo dire che io, facendo il mio mestiere, ho avuto di psicoterapeuta, ho avuto tante volte in studio persone che leggevano un SMS e dicevano si renda conto cosa mi hanno scritto. Poi io provavo a rileggerlo con un'altra intonazione della voce e questa cosa cambiava completamente il significato di quel messaggio. Quindi è lì che spesso succedono dei danni e succede anche molto spesso che gli adulti a volte scrivono in tempi più veloci rispetto ai tempi del pensiero che fa prevedere le conseguenze o le implicazioni di quella frase e quindi a volte poi vorrebbero tornare indietro, ma nella chat, quando una cosa è scritta per sempre. Adesso è scritto che andiamo a sentire le informazioni sul traffico, ma ritorniamo subito dopo insieme con i vostri messaggi, i vostri interventi, il parere dei nostri esperti e Rita che ci chiama da Lecco e Daniela che ci chiama da Milano. A tra poco. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, parliamo di genitori 2.0, di quelli che usano la chat di WhatsApp per informarsi su tutto ciò che accade nella classe del loro figlio. Partecipiamo alle chat, lo riteniamo assolutamente normale, è un'opportunità indubbiamente per essere presenti anche quando siamo altrove, per informarci, per stringere delle relazioni con i genitori dei compagni di nostro figlio, per iniziare a coltivare amicizie. Ma mi chiedo, proviamo un po' a ritornare indietro nel tempo, ai banchi di scuola, quando eravamo ragazzi, e la scuola era anche un po' il nostro spazio, diciamola tutta, un piccolo mondo in cui quando e se noi rispettavamo le regole potevamo muoverci con una certa autonomia. Saremmo stati contenti allora di avere genitori sempre presenti, sempre aggiornati in tempo reale di quello che succedeva nella nostra classe e di come stavamo, di cosa facevamo, pronti anche a proteggerci e a risolvere tante situazioni? 800 24 00 24. Intanto andiamo a Lecco, c'è Rita che ci aspetta. Buongiorno Rita. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno Rita. Chatta Rita? Io non chatto, cerco di chattare a meno che non sono obbligata a dare delle risposte perché poi risulti maleducato se non rispondi, quello, se sei in un gruppo. Non chatto e vi porto via poco tempo. Io ho tre figlie, tre età diverse, tre esperienze scolastiche e sportive diverse. Proprio una breve affermazione anche un po' provocatoria. Allora, che i genitori smettano di nascondersi dietro il loro bisogno di esserci troppo e sempre e di controllare la vita dei propri figli, perché il controllo sull'educazione si esercita in tante altre maniere, e di controllo, che è così brutta la parola, si deve parlare, e che ai nostri figli non piace. Ai nostri figli non piace che noi entriamo così a gamba tesa nell'esistenza del loro spazio, dove hanno bisogno di definire una propria identità e dove invece i genitori finiscono per sapere tutto, molto più di quanto non gli serva. I genitori smettono di nascondersi dietro questo bisogno perché non riescono a recuperare con fatica quella loro responsabilità di incontrarsi tra di loro, di andare a scuola, di partecipare alle riunioni, certo, di creare un fil rouge che collega un po' le relazioni dei genitori con i genitori, così si fanno le amicizie, quando in realtà fanno tutto questo per avere un controllo facile e veloce da lontano, perché fino a qualche anno fa, meno, ecco, esatto. Rita, quindi, in tempi prima della chat i genitori avevano un tempo per parlare, informarsi, anche perché no, fare i commenti più o meno gradevoli sui professori, su quello abbiamo sempre fatto, no? Il mio quello ce l'ha con mio figlio studia tanto, oppure mio figlio è una bestia, non studia mai. C'erano anche degli spazi deputati al confronto davanti a scuola, alle elementari, quando si andavano a prendere i bambini, al ricevimento dei professori, mentre si aspettava il proprio turno, in occasione dei consigli di classe. Adesso in chat non c'è spazio, non c'è fine, siamo sempre tutti connessi e un commento, lo sappiamo bene, tira l'altro. Andiamo da Daniela, che ci chiama da Milano, è un'insegnante, mi segnalano dalla redazione. Daniela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professoressa, buongiorno. Che cosa insegna lei? Senta, io insegno lettere alla scuola media. Ah, meno male, temevo matematica. Al termine, diciamo, della mia carriera, tra virgolette. Quindi ho una grande esperienza anche di genitori. Allora, la chat ben venga, nel senso che è una nuova strumentazione di rapportarsi e va bene. Poi, sul gruppo genitori, che adesso comunicano tutti con WhatsApp, se vuole essere questa una formalità e un modo per fare amicizie, venga, d'accordo. Se è un modo per entrare e ingerirsi ancora di più nella scuola, già lo fanno abbastanza, e in modo anche inutile e diseducativo, no, non va bene, perché che dei genitori si scambino i compiti dei figli per WhatsApp inizialmente mi faceva sorridere. Adesso lo trovo molto preoccupante, perché questa ingerenza non è educativa, perché deresponsabilizza ancora di più i ragazzi. Secondo, si permettono di lanciare una rete di giudizi su eventi ai quali loro non presenziano nemmeno. Quindi, per sentito dire e poi per commentano. Per sentito dire e per trasmettere questo tam-tam in cui loro sono presissimi. Cioè, ieri io avevo un consiglio di classe aperto ai genitori. Alcuni genitori non sono intervenuti perché avevano altro da fare, non perché fossero al lavoro, perché poi facciamo i consigli di classe in orari apposta per agevolare le persone che lavorano. Che lavorano e quindi non potrebbero venire alle 3 del pomeriggio, ecco, per intenderci ancora di più. Perché erano a fare la spesa e con WhatsApp tanto loro sono informati. Non sono informati quindi proprio di niente. Un giudizio, una bocciatura da parte di Daniela, insegnante di lettere. Allora, abbiamo giusto gli ultimi due minuti, ma naturalmente la nostra discussione può continuare sulle pagine sui social. A proposito, allora Alberto, un commento e poi rapidamente sentiamo anche Yolanda e il professor Giuliano. Ma il mio commento è che i social sono molto veloci, ci fanno dire e fare cose a una velocità maggiore della velocità del pensiero, che invece dovrebbe gestire quelle azioni, e in questo senso sono molto pericolose anche per noi adulti. E Yolanda, la mamma? Allora, io sono assolutamente d'accordo con la professoressa Daniela, è proprio un pensiero che volevo esternare qui. Cioè, il fatto di scambiarsi continuamente i compiti, chiedere informazioni sui compiti dei bambini, ma anche quando diventano grandi, cioè noi abbiamo chat anche del ginnasio in cui si chiedono queste cose, io lo trovo altamente diseducativo, perché i bambini vengono deresponsabilizzati, i ragazzi anche vengono deresponsabilizzati, ed è gravissimo. I compiti sono compito loro, non nostro. Andiamo al professore, al nostro preside. Preside, chiudiamo con lei, ultimi 30 secondi. Allora, due aspetti delle chat. Innanzitutto, un primo aspetto, aspetto di effetto megafono, quindi si amplificano episodi che molto spesso rientrano nella banalità o quasi. Secondo aspetto, molto spesso, uso distorto due aspetti negativi, assistiamo a violazioni sistematiche di privacy attraverso le chat. Un altro aspetto che però considero ci positivo è quello che molto spesso, grazie alle chat o ai sistemi di comunicazione scuola-famiglia telematici, abbiamo notato un incremento degli incontri di persona, cioè acquisisco la notizia. Bravo, e quindi per quelli che spesso si dimenticano gli appuntamenti. Saluto tutti, su questo tema torneremo. Grazie, a domani. Sì, domani mi lasci sola, ma torna giornata venerdì. Mondiale della vista. Buona giornata a tutti.